Ho scelto le passioni come, diciamo, forma di energia che crediamo possa veramente generare cambiamento. Le passioni vengono raccontate attraverso format diversi che vanno dal cinema e la videoarte, quindi questo tipo di passione, all'installazione artistica, all'agricoltura e al cibo, che crediamo che siano altre forme di passioni fondamentali per poter vivere in armonia con l'ambiente, con la natura e soprattutto per generare quel cambiamento necessario oggi per affrontare dei problemi che in realtà non stiamo affrontando, come quelli del cambiamento climatico e in generale i problemi ambientali. Spesso i giornalisti, quando si occupano di questi temi, danno un tono negativo alle questioni. Quello che cercate di fare voi è invece dare anche un altro mood. Assolutamente sì, io mi occupo di ambiente da sempre, da quando mi sono laureata, e mi sono spessissimo ritrovata a trattare questo tema sempre in gruppi molto ristretti, con poche persone, perché i toni negativi, in realtà anche giusti, perché sono effettivamente dei problemi seri, però che si danno, allontanano le persone. Noi abbiamo provato attraverso resilienze sia a darle diciamo degli altri punti di vista rispetto a queste tematiche, ma anche a provare a guardare, diciamo, alle relazioni tra le cose, che sono quelle che generano i problemi ma forse possono anche generare le soluzioni. Quindi a provare a unire i puntini, unire le professioni, unire le competenze, unire le visioni, e per questo artisti insieme a centri di ricerca, e per questo aziende insieme a fotografi, esploratori, cittadini insieme a videomaker, cioè per provare a riconnettere quelli che sono dei legami che secondo noi si stanno rompendo, si sono rotti. I giorni del festival saranno 3, come si fa per sapere tutto il programma completo? Sì, i giorni del festival sono 3, inauguriamo venerdì pomeriggio, il primo incontro è alle 4 e terminiamo domenica sera. C'è un sito che si chiama resilienzefestival.it e c'è la pagina Facebook di Kilowatt, dove ci sono tutti gli eventi, e c'è un gruppo Facebook che si chiama Resilienze, dove ci si può iscrivere e che vuole raccontare non solo il Festival Resilienze ma tutte le esperienze di resilienza. Qualche spunto dal programma di questa seconda edizione di Resilienze. È una 3 giorni che abbiamo cercato di costruire attorno a dei format per cercare di rendere chiaro comunque anche al nostro pubblico di come può esserci un meticciaggio cross-mediale, di come entità diverse, dai centri di ricerca ai viaggiatori, a artisti, a performer, possono dialogare per trovare vie di uscita, trovare un adattamento che prima di tutto è culturale, immaginativo, no? Siamo partiti dall'idea che la resilienza, per quanto riguarda anche i conflitti ambientali, tutte le dinamiche ambientali che si sono messe in moto adesso, se le affronti con paura, quindi in retroguardia, giochi sempre un po' di rimessa, che è quello che poi fanno un po' anche la politica dei nostri decenni, no? Cercare di un lavoro di retroguardia. Invece, insomma, ci può essere un adattamento che è anche esplorativo, che è anche passionale, che può essere creativo. È questo che abbiamo cercato di mettere in moto. Per dare ordine un po' e chiarezza al programma, l'abbiamo diviso in filoni tematici, in format. Il più imponente, diciamo, è narrazioni, è il momento della parola, perché è da lì che vogliamo anche ripartire, no? Confronto tra idee, buone prassi che si mettono in moto. E quindi ci sarà, posso segnalare il venerdì dalle terre estreme, navigatori di barche artiche italiane, la ricerca di dati sul clima, fotografo Fabiano Ventura che gira gli 8000 con un National Geographic per raccogliere scatti dei ghiacciai in scioglimento. Parleremo di resilienza alimentare, quindi come alimentazione, sport, cibo in collaborazione con il Cenero possono rappresentare anche un valore per la nostra salute e quindi l'adattamento che possiamo avere al clima e all'ambiente. Parleremo di agricoltura biologica, domenica sarà tutta una giornata assieme a Gusto Nudo dove parleremo di come l'agricoltura, le cose che mangiamo dal campo alla tavola possono aiutarci anche nell'affrontare i cambiamenti climatici. Un altro appuntamento molto importante è Arte e Resilienza, dove appunto l'artista Francesca Pasquali assieme a Andreco, assieme a Lorenzo Balbi di Mambo dialogheranno per capire di come con creatività, con anche una buona dose di provocazione, si può parlare di ambiente, di cambiamenti climatici attraverso l'arte. Un appuntamento interessante è Sguardi Resilienti, da lì siamo partiti, dal cinema, e quindi del cinema torniamo, concorso per Under 35, proietteremo 11 opere medie e cortometraggi dove il tema dell'ambiente, il tema della resilienza sarà centrale, daremo anche dei premi, ci sarà un'opera teatrale di Stefano Liberti con i suoi Signori del Cibo narrato e raccontato live, e poi molta musica disseminata negli spazi delle sere, artisti non banali, non casuali, che rispecchiano un po' la filosofia del festival, una multidisciplinarità nei tre giorni che resiliencefestival.it è il sito, ma vi stimolo ad andare a vedere, a cercarvi le cose che più si confanno un po' con i personali interessi. Chiudo dicendo che anche i mass media avranno un ruolo di discussione e di racconto ogni mattina. Il vostro direttore sarà sabato e domenica assieme ad altri a leggere i giornali alle sere, e questo è anche un buon momento per farsi un'idea di cosa gira attorno.